8. Una cantina umida, senza intonaco né pavimento. Nell'angolo più scuro, un gatto morto saziava una banda di topi. Il calore della stufa era una goccia nel mare di gelo. Raggi di sole smorto e grida eccitate colavano giù dalle bocche di lupo. L'orco, col grembiule, travasava il vino dalle damigiane alle bottiglie, senza riempirle. Lo sfregiato lavorava di lima su un vassoio di peltro. Il più magro dei tre raccoglieva la polvere con un cucchiaino, la versava nel bordeaux, aggiungeva acqua e contava ad alta voce. 107, 108, 109. Dall'ingresso sul fondo proruppero nella stanza due individui, eleganti come lord se paragonati agli altri. Sotto i pastrani, giacche di lino grezzo e calzoni di lana. Il più alto aveva persino una parrucca sfilacciata e sporca, ma di buona fattura. In mano un foglio sgualcito. «Signori!» annunciò con enfasi. «Il Daily Courant ci fa l'onore di un articolo!» «Dannato cazzo! Leggi un po'!» «Zitti! Mi incasinate la conta! Dove stavo?» «C'è la lettera del Merlo che abbiamo spennato l'altra notte. Dice che se qualcuno non gli crede può andare dal dottor Flint e chiedere a lui com'era bollito dopo la cura degli indiani.» «La freccia nel culo, chissà che ghigne, dottor Flint!» 108! Eri arrivato a 108! Ma che? Almeno 110! Tocca che ricomincio!» «Lascia perdere!» lo fermò il nuovo arrivato. «Si deve parlare!» «Qualche trucco per la serata?» domandò il contabile. «Anche!» Lo sfregiato sorrise, con l'occhio buono slavato dal gin. Non aveva progetti per l'ultima notte dell'anno, a eccezione di un ragazzino che gli doveva un favore. «Porta il vino!» ordinò il lord a quello col grembiule. «Voglio sentirlo prima che lo piombate.» Piegò il giornale e andò a sedersi su una cassa di legno abbandonata più in là. Gli altri quattro ne trascinarono altrettante a formare un cerchio. Gli passarono la bottiglia, tirò una sorsata, si sfilò la parrucca e prese a pettinarla con le dita. La testa scoperta rivelò il ciuffo da guerriero indiano e una mezzaluna turca tatuata in fronte. Con un gesto invitò l'altro lord a prendere la parola. Era un biondino pallido, aria sifilitica, pancia da birra. A prima vista pochi gli avrebbero dato un penny. «Dunque», si schiarì la voce, «la storia è questa. Qui a Soho smazzano tutti in solitaria. Tagliaborse, scippatori, borsaioli, scassaporte. Qualche stradaro sulla via di Tottenham, rape come le nostre, ce n'è solo uno che le sbaffa. Si chiama Dread Jack, ha una ganga da sette e fa il gioco infame. Ladre e acchiappa i ladri, gratta, piazza, si canta chi compra e intasca la mensa.» «A Covent Garden non ne avevamo di stronzi così», commentò malinconico lo smilzo. «Avevamo i bracchi del giudice Fielding in compenso e abbiamo dovuto sgambare.» «Animo, sguanati», tagliò corto l'imperatore. «Magari il trasloco ci fa bene. Il garden era troppo fitto, ormai. Qui niente cagnacci. Solo bacucchi della guardia. Gli fai e scappano in parrocchia. Mettiamo sotto Dead Jack e il gioco è fatto. I polli tutti per noi. Le facce tutte con noi.» «La fai liscia», sputacchiò lo sfregiato. «Quello mica è un poldo qualsiasi. La gnocca indiana gli fa una sega.» «Non dire stronzate, Cole. Noi siamo i Mohawk di Londra. Altro che ciuffo. Questa qui», batté la mano sulla fronte, «non me la sono fatta ieri.» «Lo sappiamo, Dave», l'orco recitò la filastrocca. «Tuo nonno era Hendrik, il re dei Mohawk, che venne a Londra e si fece una scopata.» «Proprio così. Tutta la città sbava per gli indiani, come allora. Se avevamo la ganga del signor Nessuno, quello manco la scriveva, la lettera sul Courant.» «E secondo te, Dread Jack legge il giornale?» «A malapena saprà scrivere il nome, ma che c'entra? Al gregge basterà sentire il nostro di nome per cagarsi in saccoccia.» «E a noi che ce ne viene?» Il contabile strizzò il naso in una smorfia da gatto. «Se si cagano, pagano», sentenziò l'imperatore. «La paura è l'anima del commercio. I selvaggi della città non vedranno l'ora di mettersi con noi. I vecchi della guardia pregheranno Dio. I bracchi di Fielding staranno a cuccia nel canile di Bow Street. Dead Jack ci penserà due volte prima di fare la guerra ai Mohawk di Londra.» Detto questo, estrasse dalla tasca una scatolina rivestita di velluto, ne cavò uno stuzzicadenti in penna d'oca e prese a conficcarlo tra carie e denti guasti. «E il carico di vino che ci siamo fatti?» chiese l'orco, indicando le damigiane. «Se lo stavano cucinando loro, quel colpo.» Appunto, sono passati 3 giorni. Tu li hai sentiti lagnarsi? No, ma tempo al tempo. Tempo al cazzo. Mica scacchi che dobbiamo aspettare. Abbiamo fatto la prima mossa, adesso rilanciamo. Rilanciamo? E cosa? L'imperatore ripose lo stuzzicadenti, pescò una zolletta simile a zucchero e se la ficcò in bocca. Disgustato diede fondo alla bottiglia, fece un gargarismo e sputò per terra l'intera mistura. Al lume, disse con l'indice puntato in gola, stanga i denti come niente. Un gentiluomo... Sì, Dave, lo secondò l'orco, un gentiluomo è come un cavallo. Che cazzo rilanciamo allora? L'altro arricciò le labbra sui denti. Quando farai costretto a parlare con Fi e ti piglieranno tutti a ciondoli, come te la gagnerai la ftecca, fucchiando la fava? Risate il catarro rimbalzarono per la cantina. L'orco replicò a gesti, invitando i compari a prendersi cura della sua, di fava. Cosa stavamo dicendo? Ah già, semplice. Andiamo, ci presentiamo e se vogliono un risarcimento, glielo diamo volentieri. Silenzio, rotto solo dallo squittire dei topi. Lo sfregiato si alzò per raccattare una nuova bottiglia. Bevve un lungo sorso. Era di quelle già trattate, ma non parve accorgersi della differenza. Il contabile fu il primo a parlare. Per me ci sto. Quando? L'imperatore lanciò la parrucca e si alzò di scatto. Stasera? Non volevate festeggiare? Domani comincia l'anno Mohawk.